9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì. Il tema di oggi è pressoché dovuto su una radio come Radio 24 e di fronte alla sfida che Fiat, oltre 100 anni di storia, molti anni difficili, ce ne siamo occupati molte volte, ma negli ultimi anni, da che Sergio Marchionne dal maggio 2004 è il capo azienda di Fiat e dell'auto, una grande speranza. Ieri la lunga transizione, 6 anni, la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo e Marchionne alle prese con il rilancio di un'azienda, lo ricordiamo tutti, che nel 2004 era in condizioni giudicate fallimentare, apre una nuova pagina. A Luca Cordero di Montezemolo, come presidente di transizione, in cui ha innestato 4 anni di abile regia comunicativa anche come presidente di Confindustria, segue per decisione dello stesso presidente Fiat la nuova presidenza di Yakir Khan, quindi la famiglia degli eredi Agnelli torna in prima fila a un'assunzione diretta di responsabilità. Perché? Perché Sergio Marchionne, dopo aver convinto il presidente Obama nell'anno terribile della crisi mondiale e nella crisi ancora più terribile dell'auto, aver convinto Obama a farsi affidare il gigante più malato dell'auto americana, cioè Chrysler, proietta finalmente, è avvenuto ieri al Lingotto, le cifre di un piano quinquennale molto impegnativo, le cifre che proietterebbero per la prima volta in oltre un secolo di storia Fiat con una vera sfida globale. La sfida insieme a Chrysler di procedere alla piena integrazione di Chrysler da una parte, e quindi questo riguarda lo scorporo in Fiat tra Fiat Auto e motori, quelli di powertrain che riguardano l'auto, dalle altre attività industriali attualmente conglobate e in un'unica società, e cioè i veicoli industriali, Iveco, il movimento terra di CNH, separazione, perché Fiat Auto andrà, vedremo in che forme, conferita, fusa con Chrysler, e l'obiettivo è quello di arrivare a detenere il 51%, fino al 51% di Chrysler entro al 2016, attualmente la quota è del 20%, quindi la Fiat, in altre parole, attualmente vede il contribuente americano, visto che sono stati messi dollari, e i sindacati come azionisti maggioritari, ma questa quota del contribuente americano e dei sindacati verrà limata e la Fiat dovrebbe avere il pieno controllo anche di Chrysler. E soprattutto, al di là di questo piano, che è un piano finanziario, la separazione delle attività attuali in Fiat, il conferimento entro fine anno in Chrysler, soprattutto i piani della sfida, i numeri della sfida industriale, che è una sfida da far tremare le vene ai polsi da una parte, perché si tratta di raddoppiare i numeri fino a quasi 6 milioni di venduto di qui al 2014, quindi pressoché un raddoppio, per esempio, per Chrysler, che era giudicata da tutti negli Stati Uniti in condizioni le più difficili rispetto a General Motors, rispetto a Ford, che aveva risanato prima con minori veicoli nuovi, vetture nuove da lanciare sul mercato e i propulsori più arretrati. Eppure i numeri ieri illustrati da Sergio Marchionne sono numeri molto impegnativi, non solo perché parlano di un raddoppio di quote, ma perché la parte più delicata per il dibattito italiano di fronte a questa sfida globale, e cioè quella del possibile ridimensionamento di una Fiat che prende la sfida globale e trascura, per così dire, i suoi impegni in Italia, cioè la scia del dibattito successivo all'annuncio, poi confermato dalla Fiat, di chiudere Termini Imerese nel 2011, vede invece ieri l'amministratore delegato e il neopresidente del CAN lanciare una sfida a tutto il paese, a tutta la sua classe dirigente, alla politica e soprattutto però ai suoi dipendenti e al sindacato, perché le cifre illustrate ieri da Marchionne, di fronte a oltre 30 miliardi di investimento, 2/3 di questi investimenti nel quinquennio sarebbero riservati all'Italia. L'obiettivo in Italia non è affatto, dichiara l'amministratore delegato della Fiat, quello di ridimensionare, come a Termini Imerese, le produzioni, ma al contrario, quello di far passare la produzione del 2009, faccio le cifre precise, che a Mirafiori è stata di 178.000 unità, farla diventare al 2014 300.000 vetture. a Cassino, dove è stata di 105.000 unità nel 2009, produrre nel 2014 400.000 vetture. A Melfi, dove se ne sono prodotte 280.000 nel 2009, 450.000 nel 2014, a Pomigliano, su cui c'erano grandi preoccupazioni che dopo Termini potesse essere Pomigliano lo stabilimento di produttività più debole per la sua storia Fiat in Italia attualmente, dove nel 2009 infatti si sono prodotte solo 36.000 veicoli, l'obiettivo annunciato da Marchionne è quello a fine 2014 di produrne 250.000, le Panda, quelle che erano previste di produzione invece a Tichy in Polonia, e alla ex Bertone, quella rilevata dopo la crisi della carrozzeria torinese, da neanche 1.000 veicoli che si producevano, arrivare a 50.000 vetture. Quindi sono obiettivi che non solo confermano una presenza molto forte della Fiat in Italia con investimenti molto forti, ma una vera sfida al sindacato, perché, ha detto Marchionne, questo è il piano A, che io credo raggiungibile, ha detto l'amministratore delegato, però parliamoci chiaro, per arrivare a queste cifre di produzione nel nostro paese, e cioè per fare del nostro paese la piattaforma che vende globalmente nei mercati il più delle auto Fiat prodotte, bisogna cambiare le regole del gioco e darci molta più flessibilità. Al sindacato, lo avete sentito nel giornale radio, ha detto: io non voglio neanche parlare del piano B, cioè del caso in cui la flessibilità non vi fosse, ma certo è che se voi perdete questa occasione, Fiat non se lo può permettere, perché altrimenti in altri paesi, dalla Russia, dove l'obiettivo sono 280.000 veicoli prodotti di qui a 5 anni, al Messico, ha detto l'amministratore delegato, io ho la lista di altri paesi pronti a dare disponibilità per insediamenti produttivi. E quindi questo è il succo italiano della sfida di questa nuova Fiat all'Italia, che pone il mondo come suo orizzonte e dice esplicitamente quello che è già avvenuto nel 2009: noi non abbiamo più bisogno di aiuti di Stato, perché ce la possiamo fare comunque, anche se senza incentivi. Quest'anno il mercato italiano potrebbe cadere fino al 30%, in un'Europa che, avendo una crescita molto meno intensa di quella degli Stati Uniti e dei paesi asiatici che traino la crisi mondiale, comunque vedrà un 2010, molto brutto sull'auto rispetto a un 2009 che invece è andato bene grazie però agli aiuti di Stato. Queste le coordinate generali, ci sono molti numeri, li trovate tutti sui giornali, ma andiamo subito agli ospiti per approfondire gli aspetti industriali e finanziari da una parte e gli aspetti italiani di sfida al futuro globalizzato, ma di sfida che crede in se stesso nel nostro paese e in questa azienda che spesso invece ci ha fatto tremare, con i nostri ospiti. Abbiamo diviso la trasmissione in due, nella prima parte questi aspetti, nella seconda approfondiremo la sfida anche al sindacato e alle classi dirigenti per la flessibilità nel nostro paese. In questa prima parte gli ospiti sono Luca Ciferri, che è il corrispondente di Automotive News Europe. Automotive News è la testata di riferimento, per così dire, più autorevole a livello mondiale del settore dell'auto, quindi grazie a Luca Ciferri. Buongiorno. E Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, è stato direttore della Stampa, conosce e accompagna la parabola Fiat rispetto ai problemi italiani da moltissimi anni. Grazie a Marcello Sorgi, buongiorno. Allora, inizierei con Ciferri. Singolarmente oggi, se uno guarda la panoramica dei giornali italiani, forse il più critico, almeno nell'editoriale più importante, è il Corriere della Sera, perché c'è un Massimo Buchetti che dice: bah, crederci, non crederci, c'è un interrogativo in fondo, ma chi risponderà se davvero poi gli obiettivi della Fiat globalizzata non si tradurranno negli impegni concreti annunciati per l'Italia? Lo sottolineo solo perché mi piace considerare il fatto che c'è chi pone questi interrogativi, anche se io devo dire la verità, faccio credito a Sergio Marchionne per quello che ha fatto in questi anni, lasciando il mondo a volte senza parole, e lasciandolo senza parole per come ha convinto Obama, sulla raggiungibilità concreta di questi obiettivi. Anche se, va detto, spesso gli obiettivi annunciati da Marchionne sono stati criticati perché troppo mediatici rispetto a quello che concretamente poi si fa. Se dovessimo individuare, Ciferri, i punti deboli dei numeri annunciati ieri dal punto di vista industriale, quale metterebbe lei in prima fila tra i punti deboli, cioè quelli di più difficile attuazione? Beh, Direi nessuno in particolare, e spiego il perché. Io avevo ampiamente criticato, e mi ha fatto piacere poi sentire il discorso di Marchionne ieri, che prendeva atto delle stesse mie critiche fatte già nel 2006, che il piano precedente poneva degli obiettivi numerici per Alfa Romeo e Lancia, che erano 300.000 auto vendute nel mondo per il 2010, che già all'epoca sembravano irraggiungibili vista la gamma prodotti che veniva messa a sostegno di questi obiettivi numerici. La differenza che trovo più grossa in questo piano è che non solo l'Alfa Romeo passa, premesso, le due marche hanno venduto l'anno scorso meno macchine di quelle vendute nel 2006, essendo più lontane 4 anni dopo dall'obiettivo del 300.000 di quello che era la partenza del piano. Oggi il piano di ieri parla di 500.000 Alfa nel 2014 e di 300.000 Lancia. La grossa differenza è che questa volta le gamme prodotto che vengono messe sotto questi numeri sono delle gamme prodotto che, almeno sulla carta, come quantità di modelli e di distribuzione nei segmenti, rendono questi obiettivi credibili. L'altro dato che secondo me è più difficile da raggiungere sono le 300.000 macchine in Cina, non tanto perché la Fiat ha già perso due treni in Cina, e quello su cui ha salito oggi con un partner che si chiama Guangzhou, che è il socio anche di Toyota e Honda in Cina, ma il fatto che si arriva sempre ultimi in un mercato che è vero che cresce alla velocità della luce, dall'anno scorso più grande del mondo, ma è un mercato che non fa sconti a nessuno. Tutto questo ed è piano. Anche un mercato, lo dico solo per inciso, in cui General Motors, Ford, Volkswagen soprattutto sono già oggi molto forti, ecco, mentre sì, Fiat Volkswagen parte obiettivamente. Vende in Cina più macchine di quelle che vende in Germania da due anni, e questo è solo una, per chi opera in Cina è solo una questione di tempo che la Cina diventi il più grande mercato per un costruttore, visto che è il più grande mercato al mondo e cresce a tassi di 30-40% al mese, spesso di 30-40% anno su anno. Ricavarsi uno spazio in Cina sarà difficile. È vero che è un mercato grande, ma ormai ci sono tutti e la Fiat è l'ultima a mancare. Se posso aggiungere una questione, è quella che in fondo gli scettici aspettavano, accusavano la Fiat di due cose: primo, il disimpegno dall'Italia, e il secondo, il disimpegno della famiglia Agnelli dal settore auto. Tutto il mondo continuava a scrivere che l'auto sarebbe uscita dalla Fiat. Io mi ero permesso di scrivere un mese e mezzo fa che sarebbe stato la non auto uscire dalla Fiat, e questo è successo secondo me dimostrando due cose. La prima è che John Elkann tiene la presidenza della Fiat, quindi di ciò che contiene automobili, ergo non si disimpegna dall'automobile e ci mette proprio la faccia, quindi sia su stare sull'automobile, ma sia di passare da 650.000 macchine prodotte l'anno scorso, che sono oggettivamente un'anomalia al ribasso, non sono un dato normale, a 1.400.000, che può sembrare una cifra abnorme confrontata rispetto a 650.000 l'anno scorso, ma è un volume abbastanza normale per un paese industrializzato che è tra i 5 più grandi mercati dell'Europa. Marcello Sorgi, Yakir Khan è una delle personalità di cui in realtà nel gossip che spesso fiorisce in Italia su industriali, finanziari e così via si ripetono poche cose, perché è schivo, perché è timido, lo diciamo tutti, eccetera eccetera, però in realtà, conoscendolo come hai avuto più occasioni tu di conoscerlo, questo scendere in prima fila assumendo dopo anni apparentemente di profilo più riservato, si diceva stava sotto l'ala di Gabetti, grande Stevens eccetera, che cosa vuol dire dal tuo punto di vista? È una maturità che è arrivata in anticipo rispetto ai tempi Fiat? L'avvocato Agnelli divenne presidente molto più avanti, aveva 45 anni, lui ne ha 34 appena fatti, oppure è semplicemente il fatto che con la globalizzazione i tempi sono più rapidi e anche agli di Agnelli, dopo anni di apprendistato, si chiede di lanciare una sfida prendendosela sulle spalle, lasciando in seconda fila poi il proprio carattere, la propria maniera di vedere, non in primissima fila come faceva Montezemolo invece, i problemi dell'Italia, oppure ancora, Yakir Khan ci riserverà sorprese perché non è quello che fino a questo momento ci ha fatto capire da quel pochissimo che ci ha dato, secondo te? Ma secondo me diciamo, la sorpresa che ha accompagnato la nomina di John Elkann alla presidenza della Fiat ovviamente è legittima, però dipende anche dalla distanza con cui viene osservata la vicenda Fiat e soprattutto la vicenda Fiat degli ultimi anni. Io ho ascoltato Ciferri con grande attenzione perché non sono in grado di dare una valutazione tecnica così approfondita. Posso dare una testimonianza, nel senso che ho trascorso a Torino i 7 anni che vanno dal 1998 al 2005, ho conosciuto l'avvocato Agnelli, ho conosciuto John quando era un ragazzo appena arrivato a Torino, e quello che posso dire è che trovo dal mio punto di vista ingiustificata questa sorpresa, perché John è stato formato per fare quello che ha cominciato, che sta facendo, cioè è il suo ruolo. Intendo dire questo: John arrivò a Torino a cavallo fra il 96 e il 97, no, la malattia di Giovanni Alberto era chiaro che volgeva, diciamo, un esito infausto, e nel 1997 fu nominato nel consiglio d'amministrazione, aveva allora 21 anni. Tutto questo ne faceva l'erede designato, ma in una famiglia e accanto a un personaggio come Agnelli, che hanno sempre avuto una caratteristica militare come formazione, cioè uno viene chiamato a un incarico ma deve dimostrare di essere in grado di svolgerlo, e da questo punto di vista la formazione di John è stata una formazione molto rigorosa, a cominciare dal fatto che quando arrivò a Torino andò a vivere in un pensionato studentesco, che sembrava, per chi guardava queste cose, perfino un eccesso, cioè una cosa, dice, beh, ma insomma, cioè, il nipote di Agnelli che vive in un pensionato studentesco, ma era pensato per fare in modo che si integrasse, che capisse bene come ragionavano i ragazzi italiani e che facesse un'esperienza universitaria completa fino in fondo, cioè che in nessun momento del suo approdo in una città nella quale non aveva mai vissuto potesse sentirsi un privilegiato, uno che un figlio di papà, insomma, ecco, questo è stato. Poi me lo ricordo nei giorni terribili a cavallo fra il 2003 e il 2004, gennaio 2003 la morte dell'avvocato Agnelli, maggio 2004 la morte di Umberto Agnelli, la crisi Fiat fra il 2003 e il 2004 che sembrava avere un esito imprevedibile nei giorni in cui Fresco lasciò e Umberto Agnelli assunse la presidenza. Lo stesso Umberto Agnelli non faceva mistero di non essere affatto sicuro che la famiglia sarebbe riuscita a tenere il controllo della Fiat, ci fu tutta la vicenda del convertendo, insomma tutte cose certo, che ci ricordiamo. Ecco, in quei giorni la presenza di Iachi, si dice Iachi è timido, no, è molto discreto, ma la presenza di John, che in quei giorni assunse la vicepresidenza della Fiat dopo la morte di Umberto, era una presenza a pieno titolo, io me lo ricordo benissimo, perché partecipava alla lunghissima serie di riunioni che si tenevano in Corso Matteotti per cercare di dare uno sbocco alla crisi, e nella famosa domenica in cui Morchio lasciò improvvisamente, cioè le segretarie della Fiat raccontarono che sentirono le palle dell'elicottero che si alzava e non capirono cosa stava succedendo, perché il consiglio d'amministrazione era convocato di lì a un'ora. Nella famosa domenica in cui Morchio abbandonò e fu insediato il vertice Montezemolo-Marchionne, al processo che portò a questa decisione John aveva partecipato pienamente, quindi insomma, la sua formazione è stata una formazione dura, lui si è temprato in un momento di crisi quale forse mai la Fiat ha conosciuto, e quindi arriva a 34 anni, ma arriva dopo 13 anni di tirocinio, di duro apprendistato, per così dire. In Italia fa molta impressione, io l'ho scritto anche l'altra mattina sulla stampa, in Italia fa molta impressione, dice, ma come a 34 anni, ma attenzione, in America c'è il presidente che ha 40 anni, e bravo, in Asia e a Hong Kong, cioè nei posti che John conosce meglio, perché dimenticavo di ricordare che nel frattempo, prima che il nonno si ammalasse, fece 2 anni di stage per la General Electric andando, me lo ricordo perché poi veniva al giornale e mi raccontava, no? E mi raccontava appunto di questi mondi nuovi di cui in Italia quasi non si parlava, venivano quasi, cioè, o comunque si parlava dell'aspetto esotico, non della novità economica, esatto, di quei mondi. Io sono un po' convinto su quello che sta dicendo Marcello Sorgio, che ci sia un nucleo di profonda verità. Le difficoltà italiane spesso derivano dal fatto che Marchionne è un chietino teramano, ma che poi va giovanissimo in Canada, si iscrive a una scuola dei basiliani dove per 6 anni impara l'inglese e solo dopo 6 anni dice imparo a parlare inglese senza vergognarmi dell'accento italiano, e che porta poi Obama, ma non solo Obama, prima un grande gruppo svizzero per anni a puntare su lui come numero uno, perché sembra a noi italiani troppo poco italiano. In realtà è un italiano globalizzato, allo stesso modo Yakil Khan è un globalizzato, e per questo a molti sembra troppo poco italiano. Forse c'è un problema proprio dell'Italia a considerare la globalizzazione e la necessità di avere introiettate capacità, lingue, competenze, conoscenze, relazioni, reti che servano a stare in un mondo che non è più quello di prima. 9.35, 49 secondi, siamo tornati in studio, ci stiamo occupando dei numeri del piano quinquennale dato ieri da Marchionne, da Yakil Khan, per il rilancio di una Fiat globale con Chrysler, per il rilancio anche in Italia, passando da 650.000 veicoli prodotti in Italia a 1.400.000, e quindi una risposta che intende essere molto concreta a chi accusava questa Fiat globalizzata con lo scorporo dell'auto, il conferimento in Clauser, di allontanarsi dall'Italia, di guardare al mondo, ma di disimpegnarsi dall'auto in Italia. Ed è di questo aspetto che adesso parliamo con Raffaele Bonanni, il segretario generale della CISL, che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno Bonanni. Bonanni è con noi? Non ancora, no, mi avevano dato il collegamento come operativo oppure no. E allora una domanda per Luca Ciferri. La domanda è questa. 51 è un numero fondamentale tra tutti quelli annunciati ieri da Marchionne. Di questo 51, 17 sono restyling di veicoli attuali, 34 dovrebbero essere i nuovi modelli, puntando a un'integrazione delle piattaforme per sinergizzare, cioè sole 5 piattaforme, cioè i termini tecnici con cui si indicano i pianali e le trasmissioni simili, su queste sole 5 piattaforme condivise tra Fiat e Chrysler, ben 38 modelli. Questi numeri, rispetto allo stato dell'arte della tecnologia nota e di ciò che c'è nei cassetti di chi progetta le vetture Fiat e Chrysler, che è il grande punto debole, sono numeri credibili allo stato attuale? Tra gli analisti tecnici ieri qual era la reazione di fronte a questi numeri? Ma il problema di questi modelli è un discorso avere, prendiamo solo i modelli nuovi che sono importanti, 34 modelli di stile pronti al centro stile, o avere 34 modelli che stanno diventando un prodotto industriale, quindi ne è partita l'ingegnerizzazione, in certi casi anche il ridisegno dell'intero stabilimento installando nuove linee di assemblaggio, sì, per costruire questi nuovi modelli. Ed è anche per questo che questi 34 nuovi modelli si spargono nell'arco di 4 anni. Alcuni di questi nascono interamente in America e arrivano dalla Chrysler, quindi è un lavoro che tecnicamente fa la Chrysler, altri verranno fatti da Fiat in Europa. Non c'è nulla di sconvolgente, direi che è un piano allineato, visto che poi in fondo si sta parlando di tre marche di volume, cioè la Fiat, l'Alfa e la Lancia, comparato con quanto fanno per esempio Peugeot e Citroën, che hanno due marchi soltanto, o la ridda di modelli che presenta il gruppo Volkswagen, che di marchi ne ha 9. Quindi direi non c'è nulla di fuori dal mondo, sono cose che però adesso bisogna tirarsi sulle maniche e fare fisicamente. Il discorso direi importante che Marchionne ha ribadito ieri, rispondendo come è stata una domanda, che i soldi in cassa per finanziare questo sviluppo ci sono e non servono aumenti di capitale. Bonanni ci ha raggiunto? Sì. Buongiorno Bonanni. Allora, buongiorno. Dicevamo, di fronte a questa sfida che intende negare l'accusa di disimpegnarsi dall'Italia e a questi numeri di volume di produzione in Italia per gli stabilimenti tutti tranne Termini Imerese, la sfida è diretta al sindacato. Ieri ha detto: io non voglio parlare del piano B, Marchionne, però un piano B c'è, perché qui bisogna darci molta più flessibilità se vogliamo arrivare a 1.400.000 unità prodotte in Italia. A questo il sindacato, la CISL, Bonanni, come risponde? Ma noi rispondiamo positivamente, si dovrebbe rispondere positivamente in tempi ordinari, ancora di più in tempi straordinari come questi. È la prima azienda, peraltro la più importante, che in un momento di crisi lancia una sfida molto molto forte, di quasi raddoppiare il numero delle auto da costruire in Italia, mentre tutti pensavano a una delocalizzazione o a una contrazione notevole delle produzioni. Quindi una sfida del genere per noi va raccolta, anzi speriamo che sia un esempio importante anche per tante aziende. Basta con il piangersi addosso, il creare questa discussione da crisi, però bisogna uscirne con le sfide. Le imprese devono investire, devono avere ambizioni forti di riconquistare uno spazio importante di mercato, ma anche i lavoratori e i loro sindacati devono accettare la sfida, anzi devono stimolare questa sfida. Perché? Perché questo garantisce il benessere per i prossimi tempi e anche l'occupazione, ma una sfida di questo tipo che punta a saturare al 100% gli impianti, perché più che raddoppiare la produzione con gli stessi impianti significa portarle appunto a una produttività pari a quello dell'opificio polacco, che trasferirà, come si sa, le auto da costruire, la migliore auto per il mercato, che è quella della Panda, insieme alla Punto, negli stabilimenti italiani, segnatamente appunto a Napoli e a Torino. Significa che questo sfida anche nuove relazioni sindacali, significa soluzioni più partecipative per ottenere risultati di questo tipo, e noi siamo stati aiutati notevolmente anche dal modello contrattuale appena da pochi mesi varato, che è subito fruibile da questa impresa di raddoppiare più appunto la costruzione delle auto. E mi viene da rispondere a coloro che dicevano: che fate in momenti di crisi, perdete tempo su un modello contrattuale partecipativo che sfida la produttività preesistente? Ecco, c'è un'azienda che vuole produrre di più, vuole saturare al massimo gli impianti, vuole intraprendere una sfida che io spero raccolgano gli altri, la dobbiamo raccogliere anche noi. La Fiat spero che voglia utilizzare, insomma, questo in definitiva voglio dire, voglia utilizzare davvero tutto il potenziale culturale che c'è e operativo nel nuovo sistema contrattuale e risfidare noi su modelli partecipativi, modelli più avanzati di relazioni industriali. Questo è il modo migliore anche per sfidare il conservatorismo che c'è in politica, ma anche nel sociale, nel sindacato. Basta quindi piangersi addosso. Se capisco bene, Bonanni, per passare appunto da obiettivi tanto impegnativi come quello per Pomigliano, lo ripeto, Pomigliano nel 2009 36.000 unità prodotte, si tratta invece di passare a 250.000, quindi un ordine di grandezza che è una sfida incredibile. La risposta del sindacato potrebbe essere: Fiat, sei la più grande azienda, sei impegnata in questa grande sfida, fai vedere a tutte le altre aziende italiane di dare una parte di salario contrattato in relazione alla produttività, una parte più elevata di tutti gli altri, per indurre il sindacato e i tuoi dipendenti a crederci, a scommettere di più, ti daremo più tempo di lavoro, ma in cambio siamo i primi ad applicare in maniera tanto più innovativa degli altri, che sono timorosi, il nuovo modello contrattuale, più salario di partecipazione e di produttività. Potrebbe essere questa la risposta. Sì, è questa nei fatti, perché il nuovo modello contrattuale sposta il baricentro sulla produttività e sulle aziende, e quindi noi dobbiamo, alla luce di questa notevole iniziativa di sfruttamento appunto degli impianti, che ha bisogno di turni in più e che ha bisogno di maggiore flessibilità, lì dobbiamo discutere, già che il governo la Fiat ha denunciato l'accordo preesistente per Napoli. Benissimo, io non ho paura di questo, la Fiat non abbia paura, come noi non abbiamo paura che l'azienda appunto vuole sfondare notevolmente il tetto delle produzioni, non deve aver paura di garantire anche ai lavoratori i migliori guadagni che si potranno ottenere, lo ricordo a tutti, perché sul secondo livello noi abbiamo ottenuto dal governo un risultato di triplicare minori tasse, di pagare tre volte in meno le tasse sul salario di produttività, ma a quel punto, grazie anche al sistema contrattuale e anche accordi che possiamo fare per quell'opificio, di garantire più successo per le buste paga di fronte a un successo di produttività maggiore che si ricerca nella produzione delle auto. Quindi è una frontiera nuova importante che riguarda la sfida complessiva e che riguarda anche modelli, la sfida complessiva, perché si dice a tutte le aziende: muoviamoci, diamoci dei piani anche molto ambiziosi per riprendere il posto dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro che meritiamo, e dall'altra però anche i lavoratori possiamo stare molto meglio sia in salario sia in partecipazione partecipando a questa sfida. Le 9.47, le agenzie battono che il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Sergio Marchionne sono venuti a Roma, sono ricevuti dal ministro delle attività produttive Claudio Scajola, al quale stanno illustrando i numeri annunciati ieri al mercato agli analisti del programma fino al 2014 di integrazione e rilancio produttivo Fiat Chrysler. Alcune brevi telefonate per le risposte dei nostri ospiti. Cominciamo da Emilio, Emilio da Milano. Prego tutti di essere brevi. Prego Emilio. Buongiorno, essere breve è difficile, però io ieri ho sentito parlare di flessibilità da parte di Marchionne nei confronti del sindacato, nei confronti degli operai. Flessibilità vuol dire anche più carico di lavoro, cioè meno persone che lavorano con più carichi di lavoro, quindi molti più infortuni, cioè queste sono cose di cui non si discute mai. Io capisco che Bonanni sia salito sul carro della Confindustria da anni, però che discuta di questo, se no il sindacato perderà ancora più credibilità. Alla Fiat, non più italiana, ma super esternalizzata, cioè bisogna rispondere questo, no? È inutile, cioè fanno le macchine in lui parla di 1.500.000 macchine, ma per vendere la cosa se quest'anno perderà il 30% del mercato? Cioè questo è il problema è serio, non è un problema da niente. Grazie. No, ma solo una cosa Emilio per capirci, ma lei è favorevole al fatto che l'azienda si impegni di più invece che di meno, con l'obiettivo anche di produrre di più, o questo è una cosa comunque preoccupante secondo lei? Ma con l'obiettivo di produrre di più dove? Termini Imerese è chiusa, l'ha già detto che chiude Termini Imerese. Sì, certo. Quindi a livello italiano noi perderemo un sacco di posti di lavoro, tra l'altro io non sono dipendente, sono artigiano, ma queste cose le vedo tutti i giorni, non le vedo quando vado a caricare in marcegaglio. Va bene, no. Questo è il problema, no? Chiarissimo, non ho capito la risposta, ma va bene, faremo rispondere a Bonanni la sua preoccupazione. Bonanni fa il suo mestiere, non tocca a me dire, ma non si tratta di salire sul carro. O vogliamo aziende che impegnino il proprio capitale in Italia, o vogliamo aziende alle quali diciamo non solo non lo impegnate, ma non si può neanche crescere. Questa però è la mia opinione. Sentiamo Mauro da Verbania. Sì, pronto. Dica. Mi sente bene? Sì, dica pure, rapidamente. Allora, vedo se riesco velocemente. La mia provocazione era, stai a vedere che scopriamo che Marchionne è il miglior alleato leghista per quanto riguarda il federalismo, per questo semplicissimo motivo. Lui ha gettato questa provocazione dicendo che in Italia con gli impianti attuali, con il know-how, usando una parolaccia inglese, possiamo produrre o possiamo addirittura raddoppiare o triplicare la produzione di auto. Fermo restando il fatto che i sindacati concedano quello che il mercato del lavoro, lui ha detto... E l'abbiamo detto, ma cosa c'entra col federalismo? Andiamo al punto, cosa c'entra col federalismo? Perché vuol dire che se noi dobbiamo abbassare o comunque limitare quelli che sono i costi che vanno a incidere sui bilanci delle aziende, costi che poi sono le tasse che vengono versate a Roma, piuttosto che tagliare drasticamente non gli stipendi, ma quella parte di stipendio che entra in busta paga ma che non va nelle tasche dei... Ho capito, suggestivo, comunque certo, se Pomigliano riesce in quegli obiettivi è un buon contributo anche alla ripresa di un sud autocentrata. Claudio da Bergamo, prego Claudio, dica rapidamente. Buongiorno Giannino, io ho apprezzato molto il discorso di Bonanni, però ieri, non so se mi ricordo più se Colaninno o De Benedetti hanno detto che le aziende in Italia, e non solo la Fiat, tutte le aziende possono ripartire solo se noi facciamo un drastico taglio delle tasse. E io sono pienamente d'accordo, perché cioè, noi abbiamo una tassazione, noi siamo fuori dall'OCSE, noi siamo al 68% contro il 44% di media, l'avete detto voi Radio 24 alcuni giorni fa. Sì, però quello dipende dal governo e non dalla Fiat, per così dire. No, ma infatti, però la Fiat ce la può fare, ma non solo la Fiat, tutte le aziende italiane, se il governo gli dà una mano. Aggiungo anche che una aliquota IVA al 20% per comprare un'utilitaria da 8, 9, 10 mila euro non ci sta, e se mi dicono non si può cambiare aliquota IVA perché l'Europa non ce lo consente, allora andiamo in Europa a parlarne, ma non possiamo, cioè oggi come oggi noi le nostre aliquote IVA non possono più sostenere il carico perché sono completamente sparametrati rispetto grazie al valore grazie Claudio, la sintesi del suo intervento è: il governo dia una mano per una politica dell'auto non più fatta di trasferimenti e incentivi ma di meno tasse sul totale del settore. Io riporto il calcolo aggiornato dal centro studi promotor la scorsa settimana, il conto di tutte le imposte dirette e indirette che gravano sull'auto, dalla vendita all'acquisto, l'immatricolazione, le accise sui carburanti come su qualunque olio combustibile, parte motore e così via, è stato calcolato, certo sui promotor, che lo Stato abbia ricavato 83 e rotti miliardi di euro dall'auto nel 2009, 83 miliardi di euro. Allora, iniziamo a far rispondere Bonanni e poi gli altri due ospiti. Bonanni, vede che c'è chi pensa che sia troppo collaborativo, cosa risponde? Ma secondo me il simpatico amico che diceva quella cosa avrà occhiali molto diversi dai miei, questo lo ammetto, però io penso che in questo paese bisogna smetterla di scaricare su di altri ogni volta le questioni, perché siamo ai nodi principali. La nostra realtà nazionale progredisce se cambiamo anche paradigma nel modo di affrontare le questioni. I lavoratori, se le aziende non vanno, perdono i posti di lavoro, non c'è contrasto su un obiettivo, quello del rilancio della produzione, e in questo, in momento di crisi, è chiaro che si collabora, fare le pulci va benissimo, però fare le pulci non deve sovrastare un obiettivo comune da raggiungere. Aziende, lavoratori e governanti, e invece questo non avviene perché c'è una lettura troppo ideologizzata spesse volte da parte di molti soggetti, e alcuni cittadini spesse volte in buona fede naturalmente, e hanno il diritto di dire tutto quello che vogliono, però in buona fede cascano nell'errore. Io non sono collaborativo, io sono rappresentante autentico dei lavoratori, in quanto ho capito da diverso tempo che se crepano le aziende crepa anche il lavoro. Se collaboriamo tutti, in momenti di difficoltà forse ne usciamo. Sono d'accordo con l'amico di Bergamo, la questione vera sono le tasse eccessive per i lavoratori, che hanno le paghe più basse d'Europa perché pagano troppe tasse, e nel contempo le tasse che pagano non restituisce loro servizi sociali che non esistono, e quindi le famiglie devono pagare ulteriori soldi perché questi soldi già pagati per le tasse non funzionano. E poi le imprese che pagano delle tasse esorbitanti rispetto ai paesi concorrenti, e questo è un problema riguardo al come oggi ci gestiamo in crisi e come ci gestiremo uscendo dalla crisi. La mia opinione è che per tagliare le tasse bisogna tagliare molte istituzioni inutili, enti inutili, rafforzando la democrazia in quel modo, non indebolendola, perché esatto. È una Babele oggi. E devo dire la verità, poteri coincidenti. Vado sulla voce di Bonanni anche per dire che quello che in Italia la politica non è mai stata capace di fare, a differenza di altri grandi paesi avanzati, è che politica dell'auto è stata fatta per un gruppo. Negli altri paesi politica dell'auto significa incentivi, meno tasse, meno vincoli amministrativi, offerta di insediamenti produttivi ad altre case. Anche su Termini si sarebbe potuto fare così, vedremo se il governo ci riuscirà. Questa è una politica industriale per l'auto, come ammortizzatori sociali, sono ammortizzatori sociali che accompagnino i lavoratori senza impedire la strutturazione delle aziende, ma li tutelino nel mercato libero, poi nella formazione, non li abbandonino a se stessi, ma non con l'obiettivo di difendere il posto di lavoro sempre dove era e com'era, perché sennò le aziende non si ristrutturano. Questo è un altro pezzo, nuovi ammortizzatori sociali di cui occuparsi. Domanda finale per Luca Ciferri. Per Chrysler, che era il gigante più malato negli Stati Uniti, dove l'obiettivo è di passare dall'attuale 9% risicato nel mercato americano addirittura quasi al 15%, per Chrysler è un obiettivo credibile alla luce della forza relativa maggiore che hanno General Motors e Ford sul mercato nordamericano, Stati Uniti e Canada dal suo punto di vista? Non è impossibile, perché Chrysler è stata abbandonata di fatto negli ultimi 3 anni prima di passare a Fiat. L'ultimo anno di Daimler non ha più investito prima di regalarla a questo fondo di private equity che poi pensava di fare l'affare, ha preso il bidone del secolo e anch'esso per 2 anni non ha investito. Quindi Fiat ha preso un'azienda che era messa malissimo come quote di mercato, ma ancor peggio come cassetti. I cassetti erano praticamente vuoti. E quindi ce la si può fare. La nuova, il Gran Cherokee che esce adesso a maggio, ma ci sono i cassetti da riempire. I cassetti si riempiono in un arco temporale di uscita dei prodotti che dai 2 ai 3 anni. Quindi Chrysler oggi è messa così male perché è una società che è fallita in quanto nessuno ci ha investito dentro. Con un livello di investimento normale non è scritto da nessuna parte che non possa tornare ad avere un 13-14% del mercato. Bene, io dico ai molti critici di questa trasmissione che oggi è stato un po' singolare. Io di solito prendo molti schiaffi nella mia vita professionale perché ho molto spesso criticato Fiat e i suoi amministratori delegati e presidenti, cosa che non è molto diffusa, e ne ho presi molti professionalmente. Oggi mi accusano di essere troppo filo Fiat. Il punto è che secondo me una Fiat globalizzata, che guardi al mondo, al mercato mondiale, è una Fiat che ha meno incentivi pubblici per i contribuenti italiani, è una sfida capace di portare il meglio del mondo in Italia, con l'Italia però che è la testa di questa roba. Io spero che ce la si possa fare, sarà molto complicato e molto difficile, forse è il caso di tirarsi sulle maniche senza rinunciare alle giuste critiche che per quanto mi riguarda ho sempre fatto, e infatti le mie gote sono rosse come il mio curriculum di giornali da cui sono stato allontanato. Buona giornata a tutti, grazie regia Pietro Lacorte, in redazione Alessandro Marco Tulli, linea giornale radio, appuntamento a domani.